Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:15, nuovo appuntamento con Salva Danaio, l'ultimo per questa settimana. Oggi ci occupiamo di mutui e della stretta che si sta verificando proprio agli sportelli per chiedere, per ottenere un mutuo, che quindi diventa sempre più difficile. Lo facciamo come sempre con illustri ospiti. Saluto prima di tutto, perché è collegato telefonicamente con noi, quindi non ci può vedere, dobbiamo in qualche modo aiutarlo, il dottor Enrico Lodi, che è il direttore della divisione informazioni creditizie di CRIF. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E poi in studio con me Roberto Anedda, benvenuto e ritrovato ospite di Salva Danaio, direttore marketing di Mutui Online. Buongiorno. Grazie, ben ritrovati a tutti. E il collega del Sole 24 Ore, Vito Lops. Buongiorno anche a te, Vito. Buongiorno a tutti. Che è autore tra l'altro del libro Il Mutuo Perfetto, e ci torneremo spesso oggi, anche perché i consigli sono molto validi, ma vorrei proprio capire l'applicazione in questo momento, che diventa più difficile per tutti avere poi il mutuo allo sportello, e quindi anche fare, come dire, un po' il duro dal punto di vista del cittadino che va allo sportello, diventa ancora più difficile che non in tempi normali. Prima di tutto però andiamo a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Recuperano rispetto anche solo a una decina di minuti fa, quando abbiamo fatto l'aggiornamento nel corso del GR. Parigi guadagna uno 0,78%, Francoforte 1 punto percentuale, Londra guadagna lo 0,36%, Milano è la migliore, FTSE MIB più 1,42%, FTSE All Share l'1,30%. Oggi è una seduta un po' interlocutoria, diciamo, per quanto riguarda Milano. C'è attesa sul voto sul DDL stabilità questo pomeriggio in Parlamento, ma sicuramente l'Europa è confortata dal nuovo governo greco e da quello che sarà probabilmente il nuovo governo italiano. Lo attendiamo al varco lunedì. Sul listino principale a Piazza Affari, la Popolare di Milano in questo momento è sospesa, eccesso di rialzo più 13,87%, in pregiudizio Gilo guadagna il 5,45%, molto bene Telecom Italia più 4,26%, oggi ha comunicato i dati, in particolar modo la trimestrale è molto piaciuta agli analisti, di Asorin più 4,02%, Intesa San Paolo guadagna il 3,56%. Invece in fondo al listino una certa difficoltà per la Galassia del Lingotto, anche se il titolo peggiore è Atlantia, che cede uno 0,66%, Exor mezzo punto percentuale, Fiat cede uno 0,34%, Fiat Industrial lo 0,16%. Sui mercati c'è attesa per un dato macroeconomico in arrivo questo pomeriggio dagli Stati Uniti e la fiducia dell'Università del Michigan. Uno sguardo veloce ai cambi: euro su dollaro 1,36,39 in questo momento, e ovviamente immancabile anche lo spread tra BTP e Bund a quota 486 punti. Per quel che riguarda il rendimento, siamo al 6,65%, BTP a 10 anni, Bund tedeschi. Qui si esaurisce la nostra parentesi relativa ai mercati, torniamo a noi, parliamo di mutui oggi, di quanto sia diventato difficile accedere a un mutuo per comprare un appartamento. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms, la nostra scheda. Accendere un mutuo per comprare casa di questi tempi è talmente difficile che le famiglie italiane, sempre più spesso, rinunciano in partenza e non provano neanche a farne richiesta. È il quadro preoccupante che emerge dai dati pubblicati dal CRIF, che attestano una continua diminuzione delle domande di finanziamenti per l'acquisto di immobili. Ad ottobre è stato registrato un calo del 33% rispetto allo stesso mese del 2010, che segue il meno 23% di settembre e il meno 18% di agosto. Numeri che non fanno che confermare la tendenza di un semestre in cui la decrescita è risultata sistematicamente in doppia cifra. Se da un lato gli italiani smettono di progettare l'acquisto di casa e rinunciano a chiedere i mutui, dall'altro le banche non sono sicuramente ben disposte a concederlo, e la causa non è solo la preoccupazione che il cliente non sia in grado di restituirlo. Con il crescere della tensione sui titoli bancari e l'incertezza che circonda il debito pubblico, lievitano infatti per gli stessi istituti i costi necessari a finanziare le proprie attività. E insieme a quello tra i nostri titoli di Stato e il Bund tedesco, crescono così anche altri spread, ovvero i ricarichi delle banche che vanno ad aggiungersi agli interessi dei finanziamenti. Una situazione ancora peggiore è quella di chi un mutuo l'ha acceso, ma ad un certo punto si è trovato in difficoltà nel pagarlo, nella maggior parte dei casi in seguito alla perdita del lavoro. Per tamponare queste emergenze, l'ABI, insieme ad alcune associazioni dei consumatori, aveva varato il piano famiglie, che permetteva di sospendere il pagamento per un anno, ma la finestra temporale per accedere a questo beneficio si chiude a gennaio e molto difficilmente verrà prorogata. I casi di famiglie che non riescono a sostenere le rate, al contrario, restano e aumentano. Allora, vorrei cominciare proprio dal dottor Lodi perché ci può dedicare solo pochi minuti e poi perché sono veramente impressionanti, dottor Lodi, i dati, i numeri che abbiamo sentito in questa scheda. La flessione delle domande è, appunto, come dicevo, impressionante e soprattutto è più evidente per quest'ultimo mese, ma è una tendenza che diciamo ci accompagna da un po'. È così, da gennaio di quest'anno sostanzialmente la domanda di nuovi mutui ha preso una china discendente. Avevamo a gennaio un meno 6 sul gennaio dell'anno precedente, ci siamo tenuti su una decrescita a una cifra fino a marzo, poi aprile meno 10 e da lì siamo arrivati progressivamente fino al 33% di ottobre. Allora è chiaro che per quanto riguarda i mutui il non andare a bussare la porta alle banche è legata senz'altro, la vostra scheda è perfetta da questo punto di vista, a una forma di autocensura dei cittadini che poi è collegata anche al fatto che sta un po' anche scemando l'effetto rinegoziazione, cioè chi aveva rinegoziato e quindi aveva fatto una domanda per cambiare la struttura del proprio mutuo o cambiare addirittura ente erogante, ormai lo ha fatto, poi magari il dottor Anedda potrà dire meglio di me su questo punto. Sì. Però ci tengo a sottolineare che questa diciamo così alzata del piede dai mutui, sì, segnala anche una, come dire, sfiducia su quelle che sono le prospettive. Lo dico perché se andiamo a vedere la domanda di prestiti personali e finalizzati, i tassi di decrescita sono meno intensi rispetto ai mutui, ma sono comunque tassi di decrescita che nell'ultimo semestre in particolare sono stati particolarmente negativi, da un 5 a un 10% in meno. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la domanda riflette in maniera abbastanza precisa quelle che sono le aspettative dei cittadini. I cittadini non hanno chiarezza in questa confusione che si è creata con la crisi, con la seconda crisi finanziaria dopo quella del 2008, quali sono le prospettive in termini di certezza del loro reddito e anche di, mi lasci dire, per chi ha più certezza di reddito, sicurezza rispetto al fatto che interventi di tassazione diretta e indiretta, sì, possono venire a toccare nuovamente il loro reddito disponibile e quindi da buone formiche, perché gli italiani sono formiche e non cicale, non vanno a chiedere nuovi mutui e nuovi prestiti. Allora, giustamente il dottor Lodi diceva di questa seconda crisi e dottor Anedda, dal 2008 oggi è vero che c'è stata, come dire, si è andati su e giù, però insomma sostanzialmente è dal 2008 in avanti che qui le cose non vanno troppo bene, c'era stata una timida ripresa, poi dopo comunque sia le prospettive sono quelle che sono e giustamente la gente si deve fare due conti in tasca anche per il futuro. Sì, in realtà la partenza di tutto è addirittura nell'agosto del 2007, perché la bolla sui mutui subprime, sì, americana di allora scoppiò in quei tempi, poi nel 2008, quindi dopo un anno, anche con tutta la questione Lehman Brothers eccetera, ci fu l'esplosione, diciamo, internazionale, e siamo ancora in ballo con quella situazione lì. Ovviamente non c'è più lo strascico di quella crisi, ma ci si è avvitata sopra un'altra situazione molto simile, perché comunque alla fine si parla sempre di instabilità di sistemi, addirittura di intere nazioni, di sistemi bancari e così via. E questo, riscontriamo anche noi, sta generando sfiducia, preoccupazione da parte delle famiglie e, come diceva giustamente il dottor Lodi, che saluto, ogni tanto ci incontriamo, ci conosciamo da tempo, genera anche prudenza, perché effettivamente le famiglie, nonostante tutto, non perdono la testa, valutano se sia il caso o meno di operare per l'acquisto immobiliare momento. In questo momento. Chiaramente c'è anche da considerare che molte delle domande di richieste di mutuo che vengono presentate sono ancora operazioni immobiliari in una prima fase, in cui ancora si sta studiando il mercato, nel frattempo si comincia a chiedere il mutuo per quello che potrebbe essere un acquisto, quindi sicuramente la prima fascia che si ritira rispetto a una possibile richiesta di mutuo è proprio quella che non ha ancora concretizzato, non è ancora avanti rispetto alla procedura d'acquisto immobiliare. Chiaro che invece chi ha una trattativa avanzata, addirittura firmato un compromesso, dato delle caparre eccetera, si trova un po' più bloccato e quindi magari procede, sì. Quindi i mutui non si azzereranno, però ormai sono mesi anche da questi microfoni che parliamo di spread che aumentano, quindi un costo maggiore per le famiglie, anche un accesso più difficile al mutuo per le famiglie stesse nel momento in cui i tassi un po' salgono, e quindi in molti, nel momento in cui studiano il mercato e vedono che poi in questo momento i tassi sono alti, dicono beh, aspetto magari un attimo prima di riaffacciarmi con anche interesse. Una selezione più dura da parte degli istituti, poi ne parleremo per vedere anche quali sono insomma un po' gli orientamenti delle banche quando il cittadino si va a sedere e a chiedere un mutuo. Però volevo fare un'altra domanda al dottor Lodi, perché poi ci dovrà lasciare, quindi voglio approfittare ancora della sua presenza telefonica, perché è vero che voi raccogliete dati e poi li analizzate, però io vorrei capire a questo punto, visto che già questo meno 33% è importante, è molto importante per i prossimi mesi, è vero che voi non fate previsioni, però dobbiamo aspettarci, e voi vi aspettate voi stessi ancora un crollo ulteriore o quantomeno una stabilizzazione? La prospettiva non è tanto legata a quello che sarà l'andamento della domanda per i prossimi 3-6 mesi, ma a quello che sarà l'andamento dell'offerta. Il dottor Aneda ha colto i punti fondamentali, il tema adesso è la liquidità, cioè nel momento in cui le banche comunque, come fu all'inizio del 2008, probabilmente per il 2012 allocheranno una quantità di denaro probabilmente inferiore a quella che hanno allocato nel 2011 per fare nuove operazioni di mutuo, questa diciamo così frenata della domanda incrocerà una frenata dell'offerta, quindi c'è un po' il rischio avvitamento. Sì. Che fare allora rispetto a questo? Non dimentichiamo che il credito alla famiglia in Italia, diversamente da quanto non è stato negli anni 90, a partire dallo scorso decennio è stato patrimonio prevalentemente di quella che noi chiamiamo classe media, negli anni 90 invece era più patrimonio diciamo delle classi marginali. Che cosa voglio dire? Sono sostanzialmente le famiglie giovani, 30-40 anni, 50 anni, con figli piccoli, adolescenti, comunque minori, che anticipano il reddito futuro per comprare la casa, per comprare l'automobile, per comprare la lavatrice e quant'altro. I mutui e i prestiti servono in Italia oggi fondamentalmente a questo. Allora, qual è il segnale che bisognerebbe dare? E non voglio fare il politico, però siccome si sta affacciando una fase politica nuova, il segnale che bisognerebbe dare alla classe media è quello di una defiscalizzazione della tassazione sul reddito, cioè tu devi mettere in tasca, ma non tanti soldi, adesso scusi faccio la battuta, 50 euro a ciascun lavoratore dipendente, e gli dai il segnale che qualcosa sta cambiando e si sta invertendo, è quello il segnale, il motore dello sviluppo, secondo me, rispetto a questa visione che la classe media ha sul proprio futuro in termini di anticipazione del reddito. Allora, dottor Lodi, intanto non è solo la sua visione, ma è una visione condivisa da molti, però appunto qui cerchiamo di fare un po' il focus sui mutui, su come sta andando la richiesta, la domanda e l'offerta, e non possiamo e non vogliamo metterci a fare i politici, sennò veramente entreremo in un campo che in questo momento è molto minato. Io la ringrazio, direttore della Divisione Informazioni Creditizie del CRIF. Alle 12.35 riprendiamo a parlare di mutuo e di quanto è difficile oggi recarsi in una qualsiasi banca e ottenerne uno, però volevo prima coinvolgere il collega Vito Lops perché ci sono arrivati un paio di sms ai quali abbiamo risposto parlottando tra di noi, però adesso è giusto anche renderne conto agli ascoltatori. Allora li metto insieme, Vito, così cerchiamo un po' di fare il punto. Prima di tutto un ascoltatore ci chiede: ma se le banche non elargiscono più mutui, le stesse come fanno a vivere? E poi, parlando di mutui, si riesce a capire l'Euribor che andamento avrà nei prossimi 12 mesi? Sì, diciamo che in questo momento emergono alcuni segnali abbastanza delicati guardando ciò che accade sul mercato interbancario per quanto riguarda le banche italiane, che in media, secondo alcune fonti interne, raccolgono soldi sul mercato interbancario a tassi anche del 6-7%. È chiaro che a questi livelli è difficile oliare l'economia finanziando le imprese e le famiglie. Tutto nasce a cascata dal meccanismo dei mercati finanziari che ha portato gli spread obbligazionari ovviamente su 500 punti, come ricordavamo, e quindi da questo punto di vista è difficile in questo momento pretendere anche che le banche abbassino in modo drastico gli spread sui mutui. Per quanto riguarda l'Euribor, che ricordo è un panel composto da 44 banche, di cui 3 italiane, segnaliamo che i future che sono quotati sul mercato LIF di Londra indicano comunque calma piatta nei prossimi mesi, anzi nei prossimi 2-3 anni, proprio perché riflettono la condizione macroeconomica, e quindi diciamo che gli Euribor in questo momento sono abbastanza fedeli al tasso della Banca Centrale Europea, che è molto basso, 1,25%. Sì. E non quindi si escludono altri tagli, vedremo che cosa succederà con il nostro Mario Draghi alla presidenza. Esatto, e quindi da questo punto di vista chi ha in pancia un mutuo a tasso variabile non dovrebbe preoccuparsi per quanto riguarda l'Euribor. Diverso il discorso è che se l'Euribor fosse invece la media di quanto solo le banche italiane in questo momento si stanno prestando soldi, certo, o stanno chiedendo sul mercato interbancario, sarebbe molto più alto. Allora diamo spazio subito agli ascoltatori perché ce ne sono già ben 3 in attesa. Antonella da Firenze, buongiorno, benvenuta e grazie per aver atteso. Buongiorno, io volevo solo fare una considerazione o forse indirettamente farvi una domanda. Non sarà che la gente chiede anche meno mutui perché le case forse hanno una quotazione troppo alta rispetto a un po' di anni fa e gli stipendi sono rimasti quelli? Allora, signora Antonella, lasciando da parte gli stipendi perché non sono oggi nostra materia e comunque si entrerebbe anche qui in un campo politico un po' minato, io chiedo al dottor Aneda, è forse vero anche il fatto che appunto nonostante la richiesta di mutui scende, quindi nonostante il fatto che la gente forse compri anche un po' meno case, il prezzo proporzionalmente è sceso un po' meno, il prezzo delle case rispetto magari a quanto qualcuno si aspettava? Oh, sicuramente, ma il punto di Antonella anche sui redditi è corretto, cioè molto corretto. Cioè, la dinamica di lungo termine della crescita dei redditi in Italia, quindi al di là degli ultimi anni, purtroppo è quella che è purtroppo cresciuta meno rispetto a quello che sono stati i prezzi degli immobili, compreso anche il boom dei prezzi all'inizio degli anni 2000 e anche degli affitti. Quindi tutto ciò che riguarda la casa negli anni ha allargato la forbice di accessibilità per la famiglia media rispetto al proprio reddito e rispetto a quanto il mutuo o l'affitto costano. L'affitto poi, come sappiamo, tende a aumentare, di adeguarsi almeno parzialmente al livello dell'inflazione di anno in anno, quindi un costo destinato a crescere sempre. Il mutuo magari invece è legato all'andamento dei tassi, e sicuramente almeno in Italia il prezzo degli immobili è rimasto abbastanza rigido rispetto ai massimi che aveva toccato intorno al 2007. C'è stato poi un progressivo arretramento, ma complessivamente stiamo parlando di un calo di non più del 10-15%, quindi molto contenuto rispetto a quello che abbiamo visto succedere in altri paesi anche vicino a noi come la Spagna. Segno da un lato che, come sappiamo, in Italia la gran parte delle famiglie sono proprietari di una casa di abitazione, quindi magari ci sono meno case sul mercato, il prezzo rimane più stabile, ma è anche vero che anche in questi mesi e in quest'ultimo anno si vede come i prezzi più di tanto non scendano. Certamente rispetto ai prezzi dichiarati di vendita c'è un margine commerciale di trattativa non indifferente, forse anche più ampio rispetto al passato. No, sicuramente in questo momento comunque chi acquista è la parte forte per certi versi, cioè può contrattare meglio proprio perché non c'è grande richiesta in pista. Le rilevazioni delle varie associazioni di immobiliari rilevano trattative che durano dai 6 ai 9 mesi per l'acquisto di un immobile, quindi pensiamo che negli anni del boom recenti si andavano più di 2 mesi, quindi il mercato è molto più lento, si fanno meno compravendite perché anche l'Agenzia del Territorio ha rilevato meno vendite, e certamente la rigidità dei prezzi da questo punto di vista non aiuta, probabilmente qualche limatura in più anche nell'offerta, c'è la presa di coscienza da parte di chi deve vendere che certi prezzi magari sarà difficile rivederli anche magari per un paio d'anni, potrebbe rivitalizzare un minimo il mercato. Posti poi quelli che sono le difficoltà di cui parliamo oggi per quanto riguarda l'accesso al mutuo. Allora, Giorgio da Rovigo, buongiorno, benvenuto anche a lei, ci dica. Buongiorno a lei, scusate il disturbo e grazie per che mi avete richiamato. Ci dica. Da un anno e mezzo ne sto a fare le domande per fare la surroga. Sì. Casa di risparmio di Padova mi ha detto che si può rivolgere, alla fine mi ha detto che sono finite le surroghe. Quando ho chiesto la conferma mi ha mandato un'email che ha detto che ho rinunciato io, invece non è così. Dopo tutte le banche che sono online, le ho fatto provare tutte e nessuna, quando arriva al livello del stipendio, dice non si mettono in considerazione le trasferte. Perché io faccio il camionista, no? L'autotrasportatore. Ho capito. Sulla busta paga c'è scritto le trasferte, insieme tutto, ci fa tutto il stipendio. Quindi diciamo che lei lamenta un grosso problema dal punto di vista della surroga, quindi non è stato possibile fino a questo momento fare una surroga da una banca a un'altra. Allora chiedo prima a Vito e poi ovviamente anche al dottor Aredda, perché questa è materia sua. Vito, c'è questa? Sì, certamente ravvisiamo un calo anche delle surroghe. Tra l'altro anche in mattinata parlavo con Assofin che mi indicava per quanto riguarda le erogazioni a settembre sono calate anno su anno del 25%, quindi non solo la domanda è in calo ma anche le erogazioni a settembre 2011 sono in calo di un quarto rispetto all'anno scorso, e questo anche in ragione delle surroghe, che gli stock delle banche che destinano alle surroghe sono anche questi in calo. Tra l'altro volevo segnalare che forse casualmente all'ascoltatore in teoria potrebbe anche andare bene non surrogare, visto che gli spread nel frattempo si sono impennati rispetto al momento in cui probabilmente avrà fatto domanda, quindi ovviamente bisogna vedere il tasso di partenza, però forse tecnicamente surrogare in questo momento non è il momento migliore. Dottora Ned, anche a lei una battuta su questa questione delle surroghe, che evidentemente non è solo un problema del signor Giorgio. No, il problema poi tra l'altro che lui accennava è anche legato al reddito, che quindi potrebbe anche prescindere dalla surroga, perché inevitabilmente ogni volta che nelle componenti di reddito ci sono delle parti, chiamiamole atipiche, ma che nel caso del lavoro del trasportatore, del camionista di Giorgio, non sono atipiche perché fanno parte del lavoro stesso, ci sono banche che soprattutto in questi momenti di difficoltà valutano con maggiore rigidità e quindi considerano nel caso specifico ad esempio solo lo stipendio base e non le trasferte, che magari sono una parte corposa per molti lavori sono una parte corposa e consentirebbero quindi di avere un reddito medio più elevato sulla base del quale la banca può valutare se concedere o meno l'importo richiesto di mutuo, altrimenti si ha un'accessibilità troppo limitata, cosa che succede ad esempio per i giovani, per tutti coloro che hanno magari contratti precari e quindi redditi ancora agli inizi della propria carriera lavorativa è molto bassa. Torneremo tra pochissimo a parlare anche proprio di quello che chiede la banca poi per erogare, per concedere un mutuo. Le 12.46, e allora questa volta è veramente il signor Giorgio da Rovigo. Prima invece avevamo dato spazio al signor Aziz, scusate per questo piccolo misunderstanding. Buongiorno signor Giorgio. Sì, buongiorno. Ci dica. Per questo problema qui, come si può rivolgere? Perché io quando ho fatto queste domande qua, stiamo sempre parlando della questione della surroga, però mi pare che abbiamo esaurito l'argomento, c'è qualche problema evidentemente oggi sulle telefonate. Allora do spazio alla signora Elide dalla provincia di Viterbo, buongiorno, benvenuta anche a lei. Buongiorno a voi, ringrazio per i consigli che date a tutti. Ci dica velocemente, allora, signora, perché il tempo sta scorrendo. Sì. Dunque, mio nipote si deve sposare a giugno, acquistato, diciamo, sulla carta, perché l'appartamento ancora è da finire, stanno in costruzione questa casetta, per cui è andato alla banca con il padre, eccetera, eccetera. Hanno detto che il mutuo ci sarà quando la casa e l'appartamento è pronto, per vedere poi il valore, eccetera, e quindi stabilire anche il mutuo. Allora, adesso che arrivano tutti questi problemi, che lui ha dato già l'acconto, si è impegnato a comprare questo appartamento quando sarà pronto. Ora, se la banca dirà no, non ve lo diamo più, che succede? Perché può succedere questo, ecco, lo chiedo agli esperti. Sì, immagino che possa succedere, dottora Nedda. Ai. Sentiamo, aspetti anche... signora, sentiamo che cosa ci dice il dottor Nedda. No, diciamo teoricamente, nel senso che però si dovrebbe ipotizzare che il valore della casa e quindi anche del mutuo da richiedere rispetto a quello originariamente presentato come richiesta sia completamente diverso. Allora è vero che la casa è da finire, ma come avviene normalmente in questi casi ci sono tutta una serie di parametri. Beh, certo. Che la banca e lo stesso costruttore usa per valutare l'immobile, eccetera, quindi difficilmente poi l'operazione si discosta dai parametri iniziali. Ovviamente adesso bisognerebbe capire quando l'acquisto è stato concordato con il costruttore, perché in caso di cantieri potrebbe essere partito anche parecchio tempo fa. Quello che potrebbe cambiare sensibilmente è la condizione del mutuo, quindi il nipote della signora Elide si potrebbe trovare con un mutuo abbastanza più costoso rispetto a quello che era stato prospettato quando si era deciso l'acquisto, e queste sono valutazioni che varrebbe la pena cominciare già a fare con la banca, perché è vero che l'immobile non è stato, ripeto, ultimato, però le banche sanno come valutare gli immobili di questo tipo, si concedono mutui anche proprio per appartamenti e immobili in costruzione, quindi i parametri ci sono ed è meglio capire prima con la banca se lo scenario di offerta e di condizioni e quindi anche di importo che è un cedibile potrebbero in qualche maniera a giudizio della banca cambiare. Giuseppe dalla provincia di Bari, benvenuto. Salve, buongiorno e complimenti per gli argomenti che trattate. Ci dica. Vorrei solamente chiedere, uno stipendio intorno ai 2000 euro, quanto potrebbe essere concesso dalle banche? Allora, diciamo generalmente, questo lo so anch'io, di solito le banche concedono un terzo rispetto allo stipendio, giusto Vito? Mi sembra che la proporzione sia quella, non so però se in questo momento le banche anche su questa percentuale, quindi diciamo la rata dovrebbe coprire un terzo dello stipendio, però forse in questo momento si stanno stringendo un po' i cordoni anche da questo punto di vista. Sì, diciamo che il potere mutuo acquisto, diciamo, dell'aspirante mutuatario è determinato dal reddito netto, poi bisogna anche sottrarre, se ci sono dei figli, circa 200 euro a figlio e oltre i prestiti già in corso da parte del soggetto. La differenza determina il valore su cui puoi andare a calcolare il 35-40% che è la rata. In questo momento abbiamo segnalazioni che stanno aumentando le richieste di fideiussioni oltre alla garanzia ipotecaria, e quindi è un momento di tensione per quanto riguarda l'offerta, però non ravvisiamo dei rapporti rata redditi eccessivamente alti, quindi in teoria se la banca decide di dare il mutuo, e questo lo fa, lo si può vedere se guardando lo spread che applica, perché le banche che in questo momento stanno applicando spread al 3,5-4% in teoria non vogliono fare mutui, mentre se una banca è intorno al 2% o sotto questa soglia, in teoria è disponibile in questo momento a far mutui e quindi in teoria non dovrebbe spostare troppo il rapporto rata-reddito. Quindi bisogna vedere, per quanto riguarda l'ascoltatore, sottrarre 2000 euro sicuramente la quota di altri prestiti in corso e eventualmente le quote per figli a carico. Dottora Nedda, voleva aggiungere... Sì, tanto per completare un po', anche dare un'indicazione in più rispetto alla domanda dell'ascoltatore, dato che cercava di capire anche quanto avrebbe potuto ottenere. Diciamo che, appunto, andando tutto al meglio, secondo le valutazioni anche che faceva adesso l'Ops, quindi diciamo con una rata tra i 600 e i 700 euro al mese, si può pensare ai tassi attuali di orientarsi su un mutuo che sia intorno ai 120-140 mila euro, indicativamente come importo. un po' a spanne, però l'ordine di grandezza è questo, ovviamente in un'ipotesi di mutuo trentennale, perché è quello che permette di avere la rata più bassa, certo, e quindi automaticamente anche l'importo più elevato, più consistente, a parità, diciamo, a parità di reddito. Poi, come vedevamo prima anche dalla telefonata di Aziz precedente, e da quello che ci diceva giustamente adesso l'Ops, a seconda delle componenti di reddito, chiaramente bisogna capire effettivamente la banca come le valuta. Allora, tra gli SMS, questo mi sembra importante, perché c'è un ascoltatore che ci chiede, vabbè, ci fa tutto il suo profilo, vorrebbero ottenere un mutuo da 170.000 euro, lui e la sua compagna, lui ha un lavoro a tempo indeterminato, la compagna invece è in libera professione, non riescono a decidere se fare un tasso variabile puro o un tasso fisso, visto che l'ascoltatore ci dice attualmente i tassi fissi sono abbastanza accessibili, abbastanza bassi, lui dice, insomma. Sì, diciamo che le migliori offerte effettivamente partono addirittura sotto il 5%, di poco, pochi decimi, tra il 4,80 e il 4,90, ma sono comunque soglie, nonostante questa situazione di spread in rialzo, storicamente contenute come costo del fisso, soprattutto grazie al fatto che l'IRS, il costo del denaro di lungo termine, rimane basso sul mercato generale. E quindi per chi sceglie un fisso e si garantisce quindi comunque un tasso conveniente, a poco conto il fatto che lo spread sia elevato. In futuro probabilmente, difficilmente, i tassi fissi potrebbero essere migliori di questi. Li abbiamo avuti in passato, ma più di tanto è difficile che tornino a scendere. Sul variabile ovviamente ci si porta a zavorra, diciamo così, con un brutto termine, invece il grosso spread attuale, quindi soprattutto o si sceglie una buona banca, come diceva sempre poco fa l'Ops, quindi scegliendo bene tra quelle che ci sono sul mercato e quindi selezionando tra chi fa spread più alti e più bassi. E insomma, lo spread al 2 non è bassissimo, perché consideriamo che a giugno gli spread medi dei mutui in Italia sulle banche erano dell'1,30-1,40. Qui addirittura invece siamo con i migliori, che sono al 2, certo, o leggermente sotto, quindi sono comunque più onerosi. Addirittura portarsi nel lungo termine uno spread medio come quelli attuali al 2,60-2,70, addirittura sopra il 3, se un domani il costo del denaro comincia a risalire, diventa, dicevamo, una zavorra più importante. Certo, nello scenario attuale è difficile pensare che il costo del denaro possa tornare a risalire, a breve, almeno a brevissimo, però insomma è comunque da considerare. Alessandro dalla provincia di Ancona, velocissimo, perché abbiamo veramente poco tempo. Volevo far presente, ecco, che ad esempio in questo momento c'è stato un problema della regolazione del mutuo nei miei confronti con la banca con cui lavoro, perché poi faccio il consulente finanziario, quindi vede anche gli stipendi. Il rapporto rata reddito era 1:4 e l'LTV sul mutuo era il 65%. La risposta è: non diamo in questo momento soldi ad autonomi. Allora, questo è evidentemente un problema che non ha solo il signor Alessandro, non ha avuto solo il signor Alessandro, e allora io una battuta proprio da Vito voglio in chiusura, perché nel suo libro Il Mutuo Perfetto ci chiede, ci dice che bisogna insomma essere un po' più vigorosi quando si va allo sportello a chiedere un mutuo, in queste condizioni però è oggettivamente difficile, proprio in una battuta, Vito. Sì, per gli autonomi è complesso, ma anche gli autonomi, così come tutti i lavoratori dipendenti, devono capire che il mutuo perfetto anche oggi si può chiedere, non chiedere il mutuo pigro. Grazie a Roberto Anedda, grazie a Vito Lops e a tutti voi che ci avete ascoltato. Un buon weekend.